Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Anche oggi per l'ultima volta saremo in diretta dal World Business Forum qui alla Fiera di Milano. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, da un lato il PIL americano molto atteso è risultato in calo, ma meno di quanto non si temesse. Quello che è veramente crollato, forse al di là anche delle previsioni, è il dato sui consumi americani, che sono scesi al livello più basso dal 1980 come frenata, quindi come segno meno. Il meno 3% registrato dai consumi privati americani non si vedeva un calo così forte dal 1980. Le borse dopo un avvio di nuovo positivo stanno frenando, però in maniera altalenante. Il MIB è anche girato in negativo, adesso guadagna lo 0,3%, l'S&P MIB più 0,5%, Francoforte più 0,6%. L'America è abbastanza incerta, o meglio in questo momento invariata. Londra perde lo 0,6% e Parigi l'1,3%, quindi giornata mista. In negativo segnaliamo Saipem, che perde il 6,6%, ST Microelectronics il 4,5%, Atlantia il 3,8%, Eni il 3,6%, Parmalat perde il 3% e ancora Mediolanum il 2,9% di calo, Bulgari il 2,5%, Unipol il 2,2%, il 2% lo perdono Snam e Prismian, l'1,80% Enel e Generali che oggi hanno diffuso i dati sulla trimestrale. E allora che cosa è emerso? È emerso che c'è stato un peggioramento sicuramente del conto economico per quello che riguarda quella che in questo momento è la più grande compagnia assicurativa in Europa e anche negli Stati Uniti per capitalizzazione, dopo i cali di borsa di altre concorrenti. Infatti Generali ha superato AXA e Allianz, vale 25 miliardi, un po' di più di 25 miliardi di euro. Però l'utile nei primi 9 mesi del Leone di Trieste si è abbassato del 29% rispetto all'anno scorso, questo soprattutto per alcune svalutazioni su operazioni di investimento. 2 miliardi hanno svalutato le Generali investimenti effettuati legati chiaramente alla crisi dei mercati finanziari. E anche i premi che hanno dato ai clienti sono aumentati del 6%, del 6,6%, 51,7 miliardi di euro di premi che le Generali hanno riconosciuto. Sul fronte di chi guadagna in borsa invece, guadagna molto di nuovo Intesa San Paolo, più 10%, Fiat più 6%, Italcementi più 5,4%, il 5% lo guadagna sia la Popolare di Milano che il Banco Popolare, ma anche Mediaset, Alleanza più 4,4%, Monte dei Paschi più 3,5%, Unicredit più 3,4%, Impregilo più 3,2%, Buzzi Unicem più 3%, il 2,5% è il rialzo di UbiBanca, il 2% quello di A2A. L'euro è a quota 1,2842, quindi poco mosso nei confronti del dollaro. Partiremo dal rapporto, l'ottavo rapporto che sto pubblicato oggi alla vigilia della giornata mondiale del risparmio, 84esima giornata, domani la seguiremo anche in questo programma e nei nostri GR, perché a Roma sono attesi gli interventi oltre che del presidente dell'ABI Faisola, quindi delle banche italiane, anche e soprattutto quello del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e del ministro dell'economia Giulio Tremonti, quanto mai attesi vista la situazione che ormai si protrae da mesi sui mercati. Dicevo, partiremo col rapporto che fotografa in realtà degli italiani che non hanno visto peggiorare, stando all'inchiesta, all'indagine, le proprie condizioni. La spiegazione è facile: erano già pessimisti l'anno scorso, non c'è stato un peggioramento in chi dice che riesce a risparmiare di meno, anzi un leggerissimo miglioramento, non c'è stato un peggioramento in chi dice che non riesce a risparmiare del tutto e in chi ha diminuito i consumi. Diciamo, le prospettive, 2/3 sono pessimisti e denunciano difficoltà, 2 italiani su 3, ma è lo stesso dato dell'anno scorso. 349 238 6666 per i vostri SMS, rapidamente le notizie in breve, parleremo anche della differenza tra il BTP italiano e il Bund tedesco, è aumentato infatti lo spread, che vorremmo capire anche perché, della vicenda l'Italia, perché si è rotta nella notte la trattativa tra la CAI e le sigle sindacali, il tema è sempre come selezionare i 12.000 passa nuovi, 12.000 passa dipendenti della nuova all'Italia. Domani si riunirà il consiglio di amministrazione, il portavoce della compagnia ha detto a queste condizioni però non c'è più trattativa, di nuovo si riapre una vicenda che speravamo chiusa, quella di Alitalia, e chiaramente parleremo anche del dato economico americano. Rapidamente le notizie. Al di là di Alitalia, quindi, del PIL USA, il petrolio è in netto calo oggi a New York, perde $2 a $65 al barile, ma c'è un rischio per quello che riguarda la benzina di uno sciopero il 25 e 26 novembre prossimo, lo hanno reso noto le tre sigle di categoria dei benzinai italiani, perché hanno rotto la trattativa con l'ENI sul rinnovo dell'accordo economico. Nel frattempo continuano a macinare utili i grandi gruppi petroliferi, Exxon più 58% la trimestrale, ExxonMobil, gli utili vanno a 14,8 miliardi di dollari, sono quasi, anzi sono 5 miliardi in più rispetto alla trimestrale dell'anno precedente, questo grazie anche a un prezzo del petrolio che ricorderete fino a metà anno, fino all'estate, viaggiava ampiamente sopra i $140 al barile. L'Euribor invece, per fortuna, ossia il tasso interbancario che viene utilizzato dalle banche per calcolare prestiti a imprese e a privati cittadini, l'Euribor è sceso al 4,79% sulla base dell'Euribor a tre mesi, è il quindicesimo calo di fila. La cronaca di questa crisi però oggi vede l'American Express, le carte di credito, già se ne è occupata Deborah Rosciani con una puntata di Savadanaio, tornerà sul tema, c'è un rischio esposizione in America sulle carte di credito concesse anche lì, un po' come mutui, in maniera un po' troppo facile, ebbene si stimano in 55 miliardi di dollari l'esposizione a rischio delle carte di credito americane. Oggi American Express ha annunciato che taglierà 7.000 posti di lavoro, ossia il 10% di tutta la forza lavoro, e congelerà tutti gli aumenti degli stipendi dei manager e bloccherà tutte le assunzioni in programma. Ha sorpreso gli analisti però, da un lato, l'utile del gruppo Volkswagen, la trimestrale l'utile è salito a 1 miliardo e 210 milioni di euro, è salito del 27% rispetto all'anno prima, ma anche e soprattutto la trimestrale di Deutsche Bank, l'utile è stato di 414 milioni di euro, in riduzione rispetto all'anno precedente, quando era di 1,6 miliardi, ma nettamente meglio di ogni attesa degli analisti. E ancora, per quello che riguarda i dati economici e dell'economia reale italiana, l'Ilva di Taranto metterà 2.000 operai in cassa integrazione e come conseguenza del grave periodo di crisi che sta attraversando la siderurgia. Gli operai dell'Ilva di Taranto andranno in cassa integrazione a partire dal 1 dicembre prossimo e per 13 settimane, mentre per quello che riguarda l'occupazione delle grandi imprese, ad agosto il calo è stato dello 0,5%. Il nostro GR vi ha già aggiornato sulla firma che CISL e UIL, ma anche UGL, hanno messo al rinnovo del contratto degli statali. Questa mattina vi era stato l'incontro, anzi scusatemi, nel primo pomeriggio l'incontro a Palazzo Chigi, non ha firmato il protocollo d'intesa invece la CGL. L'aumento contrattuale proposto è di 70 euro circa lordi al mese, con in aggiunta il recupero in finanziaria dei tagli al fondo unico di amministrazione e anche l'impegno a recuperare sempre in fase di finanziaria alcuni tagli al trattamento economico accessorio. Il rapporto Caritas, anche questa notizia l'hanno già anticipata i nostri GR, gli stranieri salgono a 4 milioni nel nostro paese, il 6,7% della popolazione italiana, una media leggermente superiore a quella dell'Unione Europea. gli immigrati contribuiscono per il 9% del PIL complessivo, pur essendo il 6,7% della popolazione, e da loro viene garantito una cifra intorno ai 3 miliardi e 700 milioni di gettito fiscale. E poi hanno anche 6 miliardi di euro di rimesse. Questa è la fotografia della Caritas sugli immigranti. Adesso, come ogni anno, domani è giornata del risparmio, come ogni anno ci occupiamo del rapporto Ipsos che è commissionato dall'ACRI, ossia l'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane e delle Fondazioni Bancarie, come va e come stanno o non stanno risparmiando gli italiani. Allora, delle volte anche una non notizia è una notizia, nel senso che tutti si attendevano un peggioramento del rapporto Ipsos, l'ottavo rapporto sul risparmio degli italiani. Non è andata così, nel senso che la situazione è tutto tranne che rosea, ma restano due italiani su tre quelli che definiscono difficile la propria situazione, e restano due su tre quelli che dicono che negli ultimi anni è peggiorato il loro tenore di vita. Sono leggermente aumentati del 2% quelli che sono passati da una difficoltà, da uno stato di difficoltà a una difficoltà grave, ma gli ottimisti restano il 34%, i pessimisti restano sulla situazione futura il 47%, e il numero di italiani che ha dichiarato di essere riuscito a risparmiare è rimasto invariato rispetto all'anno scorso, il 34%. Addirittura è salito di un punto percentuale, così come il numero di italiani che ha dichiarato di avere consumato e speso tutto il reddito non riuscendo a risparmiare è rimasto invariato. Come mai? Beh, secondo Ipsos e la ACRI già l'anno scorso gli italiani con un forte pessimismo avevano scontato una situazione in peggioramento e quindi era già incamerato nel dato dell'anno scorso. Comunque tutte le cifre, le percentuali in maniera più articolata e chiara in questa scheda. Che sui mercati tirasse una pessima aria, i risparmiatori italiani lo avevano fiutato già da almeno un anno. Tant'è che il rapporto ACRI di quest'anno conferma un diffuso pessimismo, ma non registra sostanziali peggioramenti. Addirittura è leggermente cresciuto il numero di chi è riuscito a mettere qualcosa da parte, con una quota salita nell'ultimo anno dal 33 al 34%. Tuttavia, la preoccupazione per la crisi c'è ed è tanta, anche perché le conseguenze iniziano a farsi sentire anche nella vita di tutti i giorni. Ben due italiani su tre ritengono che il loro tenore di vita sia infatti peggiorato nell'ultimo anno. Si spende e compra di meno, ma abbandonare stili di vita consolidati o comprimere gli acquisti oltre una certa soglia non è facile. Così più di un terzo degli italiani finisce per spendere di più di quel che guadagna e cresce il ricorso ai prestiti. Oggi lo fa un italiano su 10, vale a dire il doppio rispetto al 2004 e il triplo rispetto al 2001. Sebbene il pessimismo sia il sentimento prevalente, è anche vero che è diffusa la convinzione che il paese stia, in generale, peggio di noi. Guardando ai prossimi anni, infatti, il 28% degli intervistati si attende un miglioramento della propria situazione economica e solo il 21% un peggioramento. Viceversa, i giudizi negativi sui destini economici del paese sono il 49%, il doppio rispetto a chi vede invece un futuro più roseo. La fiducia sulle prospettive economiche personali si traduce comunque in scelte di investimento che concedono poco o nulla al rischio, anche perché le attese prevalenti sono per una durata della crisi di almeno 3 anni. In vetta alle preferenze dei risparmiatori italiani ritroviamo così l'intramontabile mattone, gli strumenti di liquidità e i titoli di Stato. La prudenza si estende anche al TFR, che per 3 italiani su 5 è bene rimanga in azienda. Insomma, fermo restando che era impossibile con quello che è successo avere un rapporto sul risparmio degli italiani in chiave positiva, non c'è stato un peggioramento, e di questi tempi con questi chiari di luna è già grasso che cola. Avete visto dalla nostra scheda, avete sentito che tra l'altro la percezione degli italiani è a mio avviso modestamente corretta, dicono almeno 3 anni perché questa crisi sia completamente esaurita. I grandi economisti, i grandi istituti dicono e individuano un percorso simile dal 2010, non prima, speriamo che si sbaglino tutti, così come non c'è un numero enorme di italiani che vede la situazione in peggioramento. Voi direte, perché già messa così è difficile averla peggiore, però è solo 1 su 5 quello che la vede in peggioramento, mentre 1 su 4, 1 su 3 la vede addirittura in miglioramento. Elementi quindi in chiaro oscuro in un panorama sicuramente non facile, non bello per la finanza mondiale e l'economia internazionale. La preoccupazione quindi resta, anche se non peggiora, come ha ricordato il presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli. Sicuramente quello che noi abbiamo è una forte preoccupazione per la capacità di risparmio. Questo sinceramente non è legato in modo sistematico a un accantonamento mensile, ma sostanzialmente noi avvertiamo che nei processi di scelta, addirittura sul punto vendita, si fanno scelte molto più selettive rispetto al passato. La scelta della promozione, la selezione di marche in relazione all'offerta che viene fatta in quel momento, la scelta di unbranded, quindi di prodotti non di marca e così via. Dopodiché questi comportamenti determinano una capacità di risparmio che però non è facilmente programmabile, anche alla luce del fatto che molti pensano che non ci sia un grande controllo dei prezzi e che sia più il consumatore che si debba ingegnare per trovare l'offerta più conveniente. Da noi abbiamo un tasso di preoccupazione maggiore che in altri paesi. Ed è il ceto medio, è quella quota del 40% che dice è stato difficile tenere il potere d'acquisto, abbiamo dovuto fare delle scelte, in taluni casi drastiche in famiglia, per tenere quel tenore di vita. Ecco, tra questi c'è la paura dell'impoverimento, quindi non sono i ricchi che hanno paura, sono i poveri e quelli del ceto medio. Un dato questo commentato da Pagnoncelli che è in linea con quanto ricordavamo ieri in merito all'andamento delle retribuzioni, che sono aumentate, anche qui il rapporto è ODM, sono aumentate per i dirigenti, vicine all'inflazione più dei beni più frequenti, di consumo più frequente, sono aumentate vicino all'inflazione anche le retribuzioni dei quadri e degli operai, quelle che sono distanti dall'inflazione e dai costi, della crescita dei prezzi dei beni più consumati, sono proprio le paghe degli impiegati. E quindi la preoccupazione del ceto medio, sottolineava Pagnoncelli, e anche il fatto che gli italiani stiano operando scelte importanti quando vanno a fare la spesa. Questo non è necessariamente, vedo alcuni messaggi da 349-238-6666, non è necessariamente una cosa negativa, cioè negativa se poi non riesce ad arrivare a fine mese, però andare anche a scegliere i prodotti dove il rapporto qualità-prezzo è migliore, al di là dell'effetto moda, del battage pubblicitario e del bisogno indotto, non mi sembra un comportamento sbagliato. Poi sono comportamenti che restano anche quando la fase, diciamo, più critica dell'economia e dell'andamento del ciclo viene meno, però comportamenti selettivi poi sono educazioni anche al consumo. Sentiamo comunque come stanno investendo, quel poco che riescono a investire, i risparmiatori italiani, sempre Nando Pagnoncelli. Cresce la quota di coloro che invece dicono non vivo tranquillo se non metto da parte qualche risparmio. Come investono o come vorrebbero investire? In generale dicono di privilegiare la liquidità, 60%, e l'investimento un 35%. Come si compone? Un 23% dice investo una piccola parte dei risparmi, un 12% la maggior parte dei miei risparmi. Abbiamo chiesto, alla luce della situazione economica attuale, l'investimento ideale. Allora vedete che è cresciuto nel tempo in misura significativa la voce immobili, 56%. Poi vedete si accentua il 29% la quota di coloro che privilegiano o pensano che sia più importante investire in strumenti finanziari più sicuri. Aggiungo che tra questi strumenti finanziari più sicuri la citazione, questo è un dato aggregato, dei bot, dei titoli di Stato, passa dal 6% lo scorso anno al 10% di quest'anno. Anche questo era immaginabile, il bene rifugio e il mattone, ma ha raggiunto prezzi elevati, e poi i titoli di Stato, che sono un prodotto finanziario più sicuro in assoluto, questo è inutile dirlo, perché garantisce lo Stato italiano. Ne parleremo anche dopo, perché da un lato è aumentato anche lo spread, cioè il rendimento, quanto rende un BTP italiano rispetto a quanto rende un Bund tedesco. Di solito una volta questo voleva dire che è peggiorata la qualità del voto, del giudizio sul nostro paese come debitore. Però per concludere questo rapporto sul risparmio, questo ottavo rapporto sul risparmio di Ipsos Acri, la nostra Chiara Di Michele ha chiesto al presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, anche di sottolineare qualche elemento positivo, perché ripeto, poteva andare molto peggio visto quello che è successo nelle ultime settimane. Mi pare che i dati della ricerca Ipsos confermano intanto che siamo in un momento di difficoltà e di crisi, e quindi gli intervistati non potevano non rilevare questo dato. E peraltro ci sono aspetti positivi, il fatto che c'è ancora una fascia importante, il 34%, che risparmiano, accumulano del risparmio. C'è il lato negativo che ha aumentato un po' la fascia di chi ha consumato tutto il suo risparmio, e l'altro un po' meno pesante statisticamente, questa è buona, che si è addirittura indebitato per poter soddisfare le proprie esigenze, le proprie necessità. Quindi dato di una propensione al risparmio molto forte, e che abbiamo ancora rispetto ad altri paesi una fascia di risparmiatori importante. E allora, ripeto per l'ultima volta, non era scontato che i pessimisti, coloro i quali dicono che la situazione non va bene, che sta anche peggiorando, fossero in numero e in proporzione uguale all'anno scorso. Ci si poteva anche attendere un peggioramento rispetto al già brutto panorama dell'anno scorso. Così non è stato. Notevole invece il numero di quelli che dichiarano quasi raddoppiato di investire in bot, dal 6 al 10% degli intervistati. Allora c'è Mori Longo del Sole 24 Ore, e buonasera Mori innanzitutto. Buonasera a voi. Moria, poi parleremo dello spread tra BTP e Bund. Intanto un primo commento prima di andare in pausa pubblicitaria sulla scelta dello strumento obbligazionario. Questo si vede poi sui prezzi, sui rendimenti dei titoli. Certo, ovviamente questo gli acquisti poi riducono ovviamente i rendimenti dei titoli, e quindi più ci sono acquisti, ovviamente più i rendimenti diventano sempre inferiori. Come si è visto anche, se non ricordo male, dall'ultima asta, in cui c'è stata una domanda fortissima e di fatto poi il rendimento è calato. Certo, perché questa è una regola base del mercato obbligazionario: gli acquisti fanno salire i prezzi, fanno scendere i rendimenti, ma si è arrivati negli ultimi mesi addirittura a situazioni nelle quali in Italia, ma soprattutto anche all'estero, in America, i titoli di Stato a brevissimo termine rendevano lo 0%, 0,02%, perché erano talmente tanti gli acquisti in cerca di rifugio nel posto sicuro, cioè titoli di Stato, che i rendimenti erano arrivati a zero, quindi si mettevano i soldi lì. Non si aveva nessun rendimento pur di non perderli, quindi si è arrivati a situazioni anche paradossali negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Quasi come fosse un deposito bancario che rende praticamente nulla, però almeno sai che i soldi non svaniscono. Appunto, quando si temeva dopo il crack di Lehman Brothers che addirittura le banche potessero fallire, come tra l'altro è successo appunto a Lehman Brothers, ma si temeva un effetto contagio, soprattutto in America c'è stato proprio questo fenomeno, gli investitori mettevano i soldi in titoli di Stato perché temevano che la banca magari non potesse non esserci più dopo qualche settimana, quindi questo era un effetto, per fortuna nelle ultime settimane questa cosa sì, è rientrata. Sì, si è molto allentato. Difatti. :17:36, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Mori Longo, chiarito il desiderio che c'è di bot, come ha registrato oggi anche il rapporto Ipsos Acri, cerchiamo di capire cosa stia succedendo alla differenza tra quanto rende comprare un'obbligazione tedesca e quanto rende comprare l'equivalente obbligazione in Italia. Quello che si chiama in gergo lo spread, la differenza tra il Bund tedesco e il BTP decennale italiano, è salita a 123 punti, ossia se io compro un Bund tedesco rende il 3,85% lordo, se compro un BTP decennale italiano rende il 5,08% lordo. Moria. Sì, questo è un fenomeno abbastanza assolutamente inconsueto, perché da quando esiste la moneta unica europea non si erano mai raggiunti livelli una differenza così elevata, al massimo si andava sui 50 punti base, quindi mezzo punto percentuale, ma non un punto 23 come oggi, addirittura cioè, l'1,2% praticamente. Sì, l'1,2%, addirittura oggi c'è stata un'asta di BTP decennali e il nuovo BTP decennale è stato collocato nel momento in cui è stato collocato addirittura un punto e mezzo sopra il rendimento dei Bund tedeschi, quindi è tantissimo, non si vedeva 5,28. Questo da quando esisteva la lira addirittura, quindi è una situazione. Allora, questo è dovuto sostanzialmente a due motivi. Il primo è, possiamo definirlo più tecnico, perché in un momento di grande incertezza come quello attuale, gli investitori, e non parlo dei risparmiatori, parlo dei grandi investitori, grandi fondi, le banche e così via, preferiscono comprare i Bund tedeschi, cioè i titoli di Stato tedesco, perché innanzitutto hanno un rating molto più alto, un rating di AAA, quindi sono molto più affidabili dal punto di vista proprio creditizio, e in secondo luogo perché i Bund sono più liquidi e quindi li puoi smobilizzare velocemente nel caso li vendi prima velocemente, e poi hanno una cosa che in Italia non c'è, cioè un future, quindi i fondi che poi si devono coprire, fanno determinate operazioni finanziarie, hanno necessità di avere un future e quindi preferiscono comprare i Bund, per cui in un momento di grande incertezza come questo è normale, è consueto che tutti comprino il Bund tedesco e comprino meno o vendano i BTP italiani, ma anche i titoli della Grecia, del Portogallo e degli altri paesi europei. Quindi questo, diciamo, in un certo senso è normale. Quello che non è normale è i livelli a cui si è arrivati in questo periodo. E qui si possono fare numerose ipotesi, o che lo stato di stress degli operatori finanziari e degli investitori è tale che la corsa al Bund è fortissima, un po' come dicevamo prima la corsa dei risparmiatori verso il BOT, oppure iniziano anche a fare due calcoli e a considerare che gli sforzi che vari governi hanno annunciato, quello italiano ancora non l'ha fatto, per sostenere il sistema bancario, per sostenere appunto l'economia in una situazione di grave crisi come quella attuale, peserà ovviamente sui conti pubblici, per cui si va a penalizzare, l'investitore va a penalizzare il paese come l'Italia o anche la Grecia o il Portogallo, che hanno un rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo più elevato rispetto alla Germania o alla Francia, che hanno un rapporto tra debito e prodotto interno lordo molto più basso, e quindi si inizia a fare anche una selezione di questo tipo. Sta di fatto che livelli appunto di spread, cioè di differenza tra i rendimenti dei BTP italiani e Bund tedeschi così elevati, a detta di tutti sono anche un po' eccessivi e forse anche ingiustificati, dovuti proprio al pathos, alla speculazione intesa in senso proprio di panico del momento. Allora, chiarisco a chi ce lo scrive, più rende un'obbligazione, più rende un prestare dei soldi a qualcuno, più è inaffidabile quello a cui li presti, nel senso che se uno è molto affidabile, prestargli dei soldi rende molto poco, e i risparmiatori che hanno investito in obbligazioni argentine se lo ricordano bene, più uno Stato o un soggetto privato è ritenuto inaffidabile, più paga qualcosa in più, cioè, e da lì il rendimento per farsi prestare dei soldi. Questo è il principio alla base di tutto. Se ho ben capito quanto tu dicevi, Moria, per concludere, è normale che per tutto un insieme di motivi gli investitori istituzionali vadano più sul e anche i grandi fondi vadano sul Bund tedesco. Non è normale la differenza che si è creata, cioè comprare debito italiano rende l'1,5% in più che comprare debito tedesco, e questa è obiettivamente alta. Questo è altissimo, ripeto, non era mai successo quando esiste la moneta unica, perché ormai non esiste più il rischio valutario, cioè tutti i rischi che esistevano prima quando esisteva la lira, e quindi tornare a livelli di spread, cioè di differenza tra di rendimenti, che ricordo non esistono dal 97, da quando appunto esisteva la lira, è una cosa sicuramente che balza all'occhio e fa riflettere. Certo, il 5,28% il rendimento dell'asta di oggi sul BTP decennale è altissimo, è cresciuto di quasi un punto percentuale, sono calati invece i BTP a tre anni al 3,95%, i CCT rendono il 3,79% lordo su base annua. Io vi ricordo che dei temi del risparmio, quindi il rapporto Ipsos-Acri e come investono o non investono, il pessimismo, il cauto ottimismo di alcuni, il pessimismo dei due terzi, tutti questi temi verranno trattati domani mattina dalle 12 all'1 come sempre nel programma Salva Danaio con Deborah Rosciani. Avremo anche un collegamento con le relazioni che proprio in quell'ora avranno già tenuto, stanno tenendo, governatore della Banca d'Italia, ministro dell'economia e presidente dell'ABI. Grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore. Adesso passiamo alla borsa. Dunque, giornata abbastanza incerta oggi su tutti i mercati europei. Devo dire che alla fine però c'è stato un recupero. Il MIBTEL era positivo, poi aveva azzerato tutti i guadagni, era passato anche leggermente in negativo. La chiusura invece è tutto sommato buona, più 1,4% MIBTEL, più 1,5% S&P MIB, Parigi tra le più deboli più 0,15%, Francoforte un punto e 0,3% di rialzo, l'America sta guadagnando adesso l'1% e il Dow Jones è tornato sopra i 9.000 punti. Per quello che riguarda i mercati, citiamo a questo proposito anche il dato di Londra, più 0,34%. Come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, il commento. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, bene oggi le banche in Italia e soprattutto bene Intesa San Paolo, più 9,4%, è schizzata di nuovo 2,80 euro per azione. Devo dire che anche Unicredito ha guadagnato il 5% a 1,80 euro. Molto bene di nuovo Fiat, più 5,80, Mediaset più 5,80, Italcementi più 5,3, Alleanza più 5,2, il Banco Popolare più 4,7 e la Popolare di Milano più 4,3%. Poi verremo alle generali, ma iniziamo dal settore bancario. Sì, il settore bancario oggi è stato protagonista di buoni acquisti, di buone ricoperture, è stato insieme a quello dell'auto il settore più brillante. L'indice Eurostoxx dei bancari ha chiuso a più 5%, quello delle auto a più 6,9%, in Italia in particolare, ricordavi appunto Intesa San Paolo, che ha tenuto per tutta la seduta un ritmo elevato, arrivando a guadagnare anche doppia cifra, oltre il 10%. È stato a tratti molto brillante anche Unicredit, ma in generale, mentre sul settore assicurativo ci sono stati andamenti contrastanti con Generali e Mediolanum, che si sono portate invece in negativo, il settore bancario ha guidato un po' in tutta Europa i listini che nel pomeriggio sono stati molto nervosi, molto agganciati alle sorti di Wall Street e del petrolio. Quando Wall Street ha allungato anche l'Europa riusciva ad alimentare i guadagni, quando Wall Street invece faticava, così è stato per l'Europa, con Parigi e Milano, l'hai ricordato tu, che sono andati in negativo. Dall'altro canto è stato anche il petrolio, il calo del petrolio sotto i $65 a segnare un po' la giornata, e in particolare le prese di beneficio sui titoli petroliferi. Sì, anche perché è un calo del petrolio che non segue un indebolimento dell'euro. L'euro è 1,29-1,28, insomma è a livello delle ultime giornate, quindi è un calo vero e proprio, non è un calo dovuto a un apprezzamento del dollaro. Fiat bene, più 5,8%, di nuovo sopra i 6 euro per azione. Che succede? Ma per quanto riguarda Fiat, dopo giornate decisamente negative sull'auto, bisogna dire che un po' tutti gli investitori ritengono che i livelli di prezzo in questo momento siano certamente non generosi nei confronti non solo di Fiat ma anche del resto del settore dell'auto. Diciamo che un impatto positivo lo ha avuto anche questa richiesta da parte dell'Associazione dei Costruttori Automobilistici Europei, dell'ACEA, che ha chiesto all'UE un intervento, all'Unione Europea un intervento sotto forma di prestiti e di incentivi alla rottamazione, vedremo se ci sarà un sostegno di questo tipo. Dall'altro canto è ritornata la tranquillità, diciamo così, ed è stato positivo un titolo molto discusso in questi giorni, cioè Volkswagen ha guadagnato l'8% dopo che Porsche era salita decisamente nel controllo del capitale e aveva messo in vendita un 5% del capitale. Questo aveva portato ai picchi in alto e ai forti ribassi dei giorni scorsi il titolo, oggi si è un po' più normalizzato, anche se ha guadagnato, diciamo, in maniera sostanziale. Di nuovo in diretta per l'ultima parte della prima ora di Focus Economia. Allora, Andrea Fontana, si diceva Mediaset bene oggi in borsa. Sì, per quanto riguarda Mediaset hanno influito positivamente due fattori. Innanzitutto i conti di Telecinco, della controllata spagnola di Mediaset, nonostante abbiano visto un calo degli utili netti nei primi 9 mesi del 2008, sono stati sostanzialmente in linea con le attese del mercato. Dall'altro canto il presidente Confalonieri ha confermato che la società è interessata all'acquisizione della Pay TV spagnola Digital Plus e che probabilmente per la metà di novembre, per quando sono attese le offerte vincolanti, sul tavolo Digital Plus ci sarà anche l'offerta di Mediaset, e questo ha un po' messo sotto i riflettori il titolo, facendogli guadagnare oltre il 5%. E poi c'è il caso Generali. Allora, oggi sono uscite alcune trimestrali, lo ricordo chi si fosse appena messo in collegamento, in alcuni casi migliori delle attese. Vabbè, ExxonMobil, colosso petrolifero mondiale, ha visto crescere gli utili del 58% a quasi 15 miliardi di dollari, utili netti stiamo parlando, in aumento di 6 miliardi rispetto, o meglio di 5 miliardi qualcosa rispetto allo stesso periodo del 2007. Altre trimestrali che hanno sorpreso sono quella di Deutsche Bank, che ha visto l'utile comunque esserci, non come l'anno scorso, è un quarto, 400 milioni, però molti analisti si attendevano una perdita per Deutsche Bank, che è rimasta coinvolta in maniera anche abbastanza pesante dagli investimenti, dalle svalutazioni in prodotti tossici. La Volkswagen ha visto crescere l'utile a 1 miliardo e 200 milioni, Motorola l'ha visto invece calare, e poi il caso Generali. Le Generali hanno diffuso una trimestrale in cui c'è stata una, diciamo, netta contrazione dell'utile. L'utile è calato del 29%, quasi del 30%, da un lato per svalutazioni finanziarie dovute agli investimenti in prodotti anche lì a rischio americani, 2 miliardi di svalutazioni per il Leone di Trieste, e poi sono cresciuti i premi come attività assicurativa classica, cresciuti del 6% a 51 miliardi. Su questo però l'amministratore delegato generale Giovanni Presinotto ha detto: noi siamo tranquilli, il nostro modello di business funziona. Ascoltiamo questo passaggio in inglese durante la conference call con gli analisti, dove il gruppo Generali ha presentato poi questa mattina i dati. Our business model has proven to be sound, as is evidenced by the continuing premium growth. Our high level of resistance to troubled time is, as ever, derived from our focus on retail and small and medium enterprises, with a client base that now exceeds 50 million worldwide. While it is difficult to predict the twists and turns the financial crisis will take as the market deleveraging continues, we believe Generali characteristics offer clients some of the best levels of assurance available in these conditions. E quindi per il Sinotto ha ribadito: il nostro modello di business funziona anche in momenti difficili, è difficile prevedere quello che capiterà, ma noi siamo concentrati su una clientela che complessivamente ha raggiunto i 50 milioni di clienti, e ancora siamo concentrati su un business anche fatto di piccoli, la clientela retail, di piccoli e medi imprenditori. Il mercato come ha reagito, Andrea? Il mercato mercati ha reagito positivamente in un primo tempo, perché per quanto gli utili si siano contratti, gli analisti e il consensus appunto del mercato era ancora più basso, per cui i risultati hanno superato le attese, ma ha reagito invece negativamente quando Generali ha annunciato diciamo così la stima di perdita potenziale dalla partecipazione in Telco e quindi in Telecom Italia, che appunto Generali, a cui Generali partecipa attraverso Telco. Il direttore finanziario ha stimato questa perdita implicita, cioè all'attuale valore di mercato, di 300-350 milioni, e immediatamente il listino ha risposto portando in negativo Generali. Gli operatori hanno spiegato questo movimento col fatto che Generali a sorpresa ha annunciato questa svalutazione, mentre gli altri azionisti di Telco, Intesa San Paolo, Benetton, Telefonica e Mediobanca avevano diciamo così annunciato che avrebbero valutato l'ipotesi di una svalutazione più in là. E Generali alla fine comunque contiene il calo 0,90%, la più negativa oggi è Saipem, li realizzi dopo i numeri che ha fatto nei giorni scorsi. Saipem meno 6,7, STMicro Electronics meno 4,1, Mediolanum meno 3,5, L'Espresso meno 2,6, come Atlantia, Parmalat perde 2,5 punti, Unipol il 2,2, Prismian meno 2,12, Snam Rete Gas meno 2%, Bulgari meno 1,50% ed Eni perde lo 0,80%. Un ultimo caso di borsa riguarda un titolo più sottile, Viaggi del Ventaglio, tra i migliori in assoluto, è arrivato a guadagnare oltre il 13%, oggi su Sole 24 Ore c'erano delle indiscrezioni a riguardo. Sì, la società è nel mirino di un gruppo russo, come scrive Sole 24 Ore, in particolare si tratterebbe di AFK Sistema, che si è fatta avanti per rilevare appunto il tour operator che fa capo alla famiglia Colombo. È da tempo che i Viaggi del Ventaglio, come anche la sua compagnia aerea Livingston, sono oggetto di attenzione da parte di fondi private equity oppure di soggetti industriali del settore europei. Questa indiscrezione, che è stata confermata da un comunicato della società, ha dato fiato al titolo, un titolo spesso depresso dalla situazione debitoria del gruppo, che invece oggi si è risollevato sulla base di questa notizia, guadagnando quasi il 15%. Le 18:10, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Poco fa è giunta la notizia che la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha garantito un prestito di 30 miliardi di dollari alla banca centrale danese, e già ricorderete l'intervento delle banche centrali americane, del Fondo Monetario, della Banca Centrale Europea nel caso ungherese, ma anche nel caso islandese. E quindi arriva la Fed in soccorso della Danimarca, che è in difficoltà perché il fiorino, la corona danese, si è deprezzata moltissimo nei confronti dell'euro. La banca centrale ha dovuto aumentare i tassi di interesse. Ma dall'America oggi il dato più importante ha riguardato il PIL. C'era molta attesa per la prima stima sull'andamento dell'economia americana nel terzo trimestre, meno 0,3%, però una contrazione inferiore alle attese, ci si attendeva infatti un meno 0,5%. Quello che ha preoccupato di più è il dato sui consumi privati, una brusca frenata, meno 3,1%, è il dato peggiore quanto frenata dal 1980, questo il giorno dopo il taglio di mezzo punto percentuale da parte della Federal Reserve operato ieri sera, che porta i tassi americani all'1%, ossia ai minimi dagli anni 50 e agli stessi livelli del 2003. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, buonasera. Buonasera, sì, direi che è questo ovviamente il dato al centro dell'attenzione, al di là del dato sul PIL, e cioè la contrazione di questo 3% delle spese al consumo. Sappiamo che i consumi sono il traino principale per i due terzi dell'economia americana, e quindi nel momento in cui i consumi soffrono, soffre tutta l'economia. Avevamo discusso qualche giorno fa un altro dato, e cioè la fiducia dei consumatori calcolata dal Conference Board, che era precipitata a 38 rispetto a un livello di 51 atteso, rispetto a un livello di 60 di settembre, e proprio quel dato indicava che si sarebbe tradotto in una diminuzione delle spese al consumo forse tra il 3 e il 3,5%. I conti tornano, l'unico dubbio è se questo dato di oggi è già implicito nel dato dell'altro giorno, oppure se dobbiamo aspettarci un'altra ulteriore diminuzione di un 3-3,5% nei consumi, e quindi la frenata peggiore dei consumi appunto negli ultimi quasi 30 anni. Questo Wall Street in qualche modo un po' lo aveva già scontato. Direi che oggi la borsa ha tenuto e ha un aumento in questo momento dell'1%, l'1,15%, circa un centinaio di punti, quindi direi che per ora Wall Street ha reagito, come dire, a nervi saldi. Non dimentichiamo che una gran parte delle notizie negative attese la borsa le ha già scontate probabilmente due settimane fa, tre settimane fa. Ecco, quindi Mario, a questo proposito c'è chi dice che, per carità, la Federal Reserve doveva tagliare i tassi e va bene, però siamo arrivati al livello del 2003, cioè a quel livello così basso, e molti dicono fu proprio Greenspan a tenere i tassi troppo bassi e a generare un eccesso di liquidità e quindi a spingere gli operatori a inventarsi nuovi strumenti che rendessero di più, da lì poi tutta la deriva dei prodotti tossici. Voglio dire, anda rianda, poi alla fine il modo per operare è sempre quello di abbassare i tassi, critica a parte. Guarda, la situazione ovviamente è una situazione totalmente anomala. Bernanke non aveva altro da fare se non fare la sua parte e dunque ridurre i tassi. Dal mio punto di vista condivido le tue preoccupazioni e ti dirò che ho anche coniato un po' un termine, che il rischio secondo me è che qui ci si muova in quella che potremmo definire la madre di tutte le bolle, perché tra riduzione dei tassi di interesse, tra pacchetto di stimoli per l'economia circa 500 miliardi, tra pacchetto di aiuti altri 700 miliardi, tra gli altri pacchetti in Europa, mettiamo insieme una liquidità straordinaria che va così a portare ossigeno al malato, ma non sappiamo se poi porta ossigeno o comunque la medicina giusta al malato. Non sappiamo se questa liquidità poi andrà a gonfiarsi in una enorme bolla di nuovo che porta su dei valori in modo effimero e che poi a un certo punto esploderà in altro modo e non avremo poi a quel punto altri strumenti a disposizione. Per cui il momento è un momento molto particolare, però non c'era praticamente molto altro da fare, dobbiamo così prendere coscienza che questa è l'unica via d'uscita in questo momento. La Fed, tra l'altro, tu hai accennato l'appoggio alla banca danese, ma la Fed ha altri strumenti per continuare a sostenere al di là dei valori minimi del 2003, quindi scendere forse addirittura al di sotto dell'1%, allo 0,50%, e comunque anche coi tassi così bassi, nel momento in cui ci fosse una resistenza del mercato, ci sono altre vie, e cioè la Fed stessa potrà acquistare in prima persona buoni del tesoro a scadenza da tre mesi a 30 anni e quindi in qualche modo iniettare di nuovo liquidità e tenere bassi i tassi a lunga, che per ora non hanno reagito molto. I tassi trentennali sui mutui, che erano al 6% fino a 2-3 mesi fa, oggi sono quasi al 7%. Quindi ci sono una serie di dinamiche in movimento, la Fed ha ancora un po' di margine d'azione e quindi dal mio punto di vista sta reagendo agli eventi e sta facendo giustamente quello che deve fare. Il rischio implicito, come dicevi tu, c'è. Vedremo, sapremo solo dopo se questa è davvero la madre di tutte le bolle. Dico solo che intellettualmente parlando molti dicono l'errore fu tenere i tassi troppo bassi, generare troppa liquidità. Prendo atto del fatto che l'unico strumento tuttora in corso e valido per uscire da questa crisi sia l'abbassamento, ed è l'abbassamento dei tassi di interesse. A chi ci ricorda che le generali, pur avendo avuto un calo dell'utile hanno, sono in utile, avete ragione, chiedo venia se non è stato detto, l'utile delle generali di 1 miliardo è stato nei primi 9 mesi dell'anno di 1 miliardo e 670 milioni di euro, meno 29% rispetto all'anno scorso, questo riguardava un approfondimento dell'ora precedente. Grazie a Mario Platero in collegamento con noi da New York, le informazioni per chi è in viaggio, poi ultimo tema di questa puntata, all'Italia nulla di fatto, si interrompe la trattativa tra la CAI e i sindacati, presto per dire se si è rotta o solo interrotta, ma certo è che è una battuta d'arresto che nessuno si augurava. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, si è interrotto, come molti di voi già sanno, nella notte il tavolo tra la CAI, la compagnia aerea italiana, e i sindacati di Alitalia. L'amministratore delegato Rocco Sabelli ha chiuso di fronte ai continui, questa è la dichiarazione che ha rilasciato la CAI, continui atteggiamenti dilatori e alla indisponibilità a firmare. Secondo la CAI così non si può andare avanti e non c'è più trattativa. Per i sindacati invece la CAI non ha compiuto alcun passo avanti per andare incontro alle loro richieste. È stata, dicono FILT, CGL, FIT, CISL e WILT dell'UGL, WILT e UGL dicono è stata una decisione unilaterale di compagnia aerea italiana quella di abbandonare il tavolo del confronto sulla stesura dei contratti e dei criteri di assunzione del personale. In effetti il nodo, per chi si fosse perso le puntate precedenti, resta quello dei contratti, ossia come verranno selezionati i 12.639 lavoratori, di cui 9.000 a Roma, che saranno assunti dalla nuova Alitalia. Sono 1.550 piloti, 3.300 assistenti di volo, 7.150 dipendenti di terra impiegati su 6 basi operative. E ancora poi gli esuberi, il numero di esuberi per ora non è modificato, sono 3.350 con ammortizzatori sociali, cioè cassa integrazione, per 7 anni. Nessuno si immaginava che la trattativa avesse una battuta d'arresto in un momento in cui mancano praticamente 24 ore, cioè alla mezzanotte di domani la CAI deve fare l'offerta, è quello il termine ultimo, a Fantozzi, ossia al commissario straordinario di Alitalia. Questa è la data e la scadenza. Gianni Dragoni, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Era un po' che non ti riospitavamo per Alitalia. Dunque, era attesa uno stop, ma soprattutto la domanda più difficile è: si tratta di qualche elemento tattico dell'ultima ora o qui sono sorti problemi che non si erano ancora prefigurati nei giorni scorsi? Ma la trattativa dell'Alitalia non muore mai. È stato raggiunto un accordo all'inizio di ottobre, eppure la fase di attuazione e iota di difficoltà. Non credo che siano problemi tattici. Il sindacato fatica ad accettare gli accordi, probabilmente anche l'atteggiamento dei piloti, che hanno chiesto di tornare al vecchio contratto e rifiutano quello concordato a Palazzo Chigi, ha reso più guardinghi anche gli altri sindacati. Insieme a questo ci sono comunque alcune anche difficoltà interne alla compagine CAI, la quale comunque sembra ormai intenzionata ad andare avanti in questa difficile partita, quindi credo che forse un possibile punto di approdo sarà eventualmente che la scadenza di domani, 31 ottobre, per la presentazione dell'offerta al commissario Fantozzi potrebbe anche subire l'ennesimo slittamento, ma al massimo di pochi giorni, se fosse utile per ritrovare un dialogo. No, perché io ricordo che Fantozzi ha dichiarato 2 giorni fa noi abbiamo liquidità fino a novembre, immagino fino a fine novembre, non fino a inizio novembre, sennò avremo problemi. Quindi tu escludi una voce che era circolata senza alcun tipo di conferma, va detto, di un po' di malumore all'interno dei soci della CAI, perché vista la difficile situazione economica non vogliono che l'investimento in Alitalia diventi un onere eccessivo. Se ho ben capito, tu dici no, loro vogliono andare avanti. Allora ti chiedo, ma com'è che i piloti, dopo aver firmato per ultimi, ricordiamo tutti quelle giornate intense sulla firma del contratto. Com'è che i piloti adesso vogliono rivedere l'accordo preso a Palazzo Chigi? Ma i piloti lo vogliono rivedere perché probabilmente qualcuno ha firmato un accordo, ma poi la categoria si è accorta che intanto diventare dirigenti presenta maggiori rischi perché sono più facilmente licenziabili, cioè perdono tutela sindacale. E l'idea comunque di avere un contratto insieme agli altri avrebbe depotenziato, ridotto la possibilità sindacale di essere unici a un tavolo, cioè come loro rappresentanti della categoria. La CAI vuole andare avanti almeno negli azionisti più importanti. Al suo interno la CAI ha dei malumori, anche se vengono, come dire, taciuti. Ad esempio l'altro giorno è stato deliberato finalmente l'aumento di capitale a 1,1 miliardi di euro. Tuttavia lo spazio per eseguirlo, quindi per versare materialmente il denaro, è previsto fino al 31 dicembre 2008, una scadenza un po' lontana nel tempo, perché la CAI dovrebbe poi, la nuova Alitalia, essere operativa almeno dal 1 dicembre, non oltre. Probabilmente questa data è un po' un termine anche diplomatico per fare in modo che chi non è completamente d'accordo possa eventualmente trovare un'intesa, oppure trovare qualcuno che mette i soldi al suo posto. Quindi ci sono effettivamente delle incertezze all'interno della CAI, non tali da far cadere il progetto, ma ci sono, quindi anche perché vedono le difficoltà del settore, le difficoltà nel rapporto con i sindacati, il timore che l'Unione Europea possa obbligare la società a restituire il prestito ponte da 300 milioni allo Stato. Però sono tutte condizioni di contorno, ma tanti dubbi che sommati mantengono la giusta dose di incertezza che potrebbe far saltare tutto. Sì, allora, mentre sui soci CAI posso capire che, vista la situazione economica, uno non abbia voglia di impelagarsi in un investimento che poi può risultare più difficile del previsto, non capisco, lo dico senza nessuna polemica con i piloti, ma non capisco come mai i piloti si accorgono adesso dell'accordo che hanno prefirmato a Palazzo Chigi, cioè che loro diventassero dirigenti è stata quasi la chiave di volta per avere la firma anche dei piloti al tavolo, per cui non capisco adesso quale sia il problema, Gianni. Guarda, non lo capisco neanche io, come non capisco tanti atteggiamenti del sindacato in questa vicenda. Ne abbiamo parlato più volte, e ad esempio a cominciare da quel famoso, ma solo per ricordare un fatto incomprensibile, rifiuto finale del 2 aprile con Air France KLM, che fece alzare dal tavolo Spinetta, come ha fatto alzare dal tavolo in situazioni diverse Rocco Sabelli stanotte. Le situazioni alla fine poi sono parallele. Il sindacato sembra effettivamente tirare la corda fino all'ultimo quando ha la possibilità di farlo. Stavolta però, se dovesse saltare, e siccome la trattativa è stata condotta anche dal governo e dal commissario Fantozzi per vendere di fatto l'attività a una sola cordata, la CAI, cioè non c'è più un'effettiva gara, ci sono solo delle offerte per dei piccoli pezzi di attività, l'alternativa, se dovesse fallire questa proposta, sarebbe solo un'effettiva chiusura o fallimento della società, a meno che lo Stato non decida di nuovo di intervenire. Ad esempio la Austrian Airlines, che stanno per vendere forse la Lufthansa, il governo ha deciso stanotte, il governo austriaco, di mettere 500 milioni di euro, ma questo l'Unione Europea lo potrebbe autorizzare solo se c'è una effettiva offerta con cui c'è una trattativa, certo, aperta. Bah, staremo a vedere. Il termine per ora ultimo è mezzanotte di domani, perché la CAI faccia un'offerta al commissario straordinario dell'Italia, Augusto Fantozzi. Grazie per ora a Gianni Dragoni, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.